E me sanno il nome tutti, perché spacca proprio, proprio sulla base, flow pesante, marca Antonio. Non mi metto in fila, voglio la mia placca d'oro. Tu non fai una lira, manco se ricambia il conio. Piombero di colpo, come un terno a lotto. Guiderò quell'R8, ti metterò sotto. Lascerò il mio posto solo quando sarò morto. Fino a quel momento mi faranno soffo. Volume 3. Sono meglio di tutti i colleghi, no, non voglio fare il polemico. Mi dispiace ma non ho competito, rido, mi fanno il solletico. Se mi servono sneakers o vestiti giusti si chiamano Domenico. La mia faccia di cazzo però non la giusti nemmeno con l'editore. Mi alfo in difetto con giorni tolle, dopo di testi pica zinu testi, logo pedico. Scrivo di protesto esoterico sopra i corpi freschi, capezzano pezzi di teschi. Sono un passo calorico, un passo canonico. Tu cazzo di comico, mi nazzo come il tasso alcolemico. Non me ne frega un cazzo le medico. Vola basso, non la passo, non la passo. Non mi incazzo, frate ingrasso, prima incastro, dopo incasso. Con il grasso, ogni rapper non mi soffre proprio. Mi ci gioco un braccio che mi fa il malocchio. Ma il pagliaccio scrivo un altro placcio, sono un caravaggio, lui uno scarabocchio. La mia squadra rascia, non ripiega, monterà sporco.